Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, mercoledì di campionato. E che campionato! Si giocano partite come Juventus-Sampdoria, Genoa-Fiorentina, Napoli-Milan. Se parliamo di salvezza, Bologna-Siena, Catania-Chievo, Livorno-Atalanta. Per poi chiudere domani sera col posticipo Inter-Palermo. Il menù di oggi è particolarmente ricco anche di temi collaterali, a cominciare dalle ricadute che continuano sulla denuncia di Cappello, sul fatto che il calcio italiano sia tuttora preda degli ultra. Il presidente del CONI Petrucci si è ribellato anche stamane, ma io sentirei prima, però, per entrare un po' in atmosfera serale, in atmosfera campionato, sentirei prima qualche vigilia. Per esempio quella di Leonardo. Il Milan è stata la squadra della scorsa settimana, direi, no? con quella tripla vittoria in rimonta. Stasera ci proverà ancora a Napoli, in questo momento sembra un pochino più difficile. Sentiamo Leonardo. Il DNA è quello, è normale che si pensi sempre a vincere, però continuo a dire che noi dobbiamo andare passo a passo cercando di capire dove possiamo arrivare. Credo che viviamo un momento positivo e troviamo un Napoli gasato. Credo che sono quelle partite belle da giocare. Allora sarà un gioco a scacchi. Sa dirmi, domanda Stefania, la formazione del Real Madrid che ieri sera ha preso 4 gol da una squadra di terza divisione? La formazione intera no, ricavo dalle agenzie che comunque giocavano Raul, Benzema, Guti, Albiol, cioè parecchi titolari. Real ha subito uno 0-4 dall'Alcorcón, squadra della terza divisione spagnola, insomma la nostra ex Serie C, oggi si chiama Lega Pro 1, qualcosa del genere. Rischia ovviamente l'eliminazione, anche se c'è ancora la partita di ritorno. Una caduta storica per il Real, e in effetti ormai la sorte di Pellegrini sembra sempre più segnata. Poi il giorno che accadrà ci si domanderà, cioè ci si interrogherà su come ripartire le responsabilità tra un allenatore che si trova con una banda di fenomeni veri o presunti interamente nuovi da assemblare in breve tempo, e invece un presidente, no, che si diverte a passare un'estate con le figurine. Credo che sia, se succederà, se il Real quest'anno andrà male, sarebbe una grande lezione per il calcio. Io credo almeno. Continuiamo col campionato. La vigilia, sentiamo Marotta. Marotta era stato, come sapete, il direttore generale della Sampdoria, era stato al centro di una trattativa con la Juventus, anzi sembrava ormai destinato alla, non alla panchina, alla scrivania principale della Juve, e poi invece qualcosa è saltato. La vigilia di Juventus-Sampdoria, Marotta. Sicuramente è un esame di maturità. Contro la Juventus ci giochiamo soprattutto anche tantissimo di quello che è il cammino sino a fatto. In questo momento siamo appunto tra l'Inter e la Juventus, quindi un ruolo direi atipico, ma abbiamo intenzione di andare a Torino e giocarcela fino in fondo, pur col massimo rispetto verso un avversario che sulla carta sicuramente è più forte di noi, però i 20 punti conquistati dalla Sampdoria sono frutto direi di un grande lavoro, ed è meritato la posizione che abbiamo. Certo, la Sampdoria da anni ha impostato un certo tipo di programmazione, quest'anno ha cambiato guida tecnica e secondo me è ancora salito, insomma i fatti dicono al momento che è ancora salito rispetto alla quadratura di Mazzarri. Adesso c'è un pochino più di fantasia e anche di estetica. Le squadre, e magari anche le grandi squadre, si costruiscono così, non certo come Real. Scrive Andrea: se serviva l'ennesima riprova che il calcio non si fa con le figurine e con le centinaia di milioni, ma che aiutano, scrive saggiamente Andrea, ma sono inutili senza una logica, giunge questa sconfitta del Real di Perez, che fa solo del male al calcio. Che goduria, firma Andrea. La vigilia del Napoli, Mazzarri. Contro il Milan bisogna sperare di andare in campo e avere per ognuno di noi, dei giocatori che scenderanno, un rendimento al top, per pensare di fare partite come quella che abbiamo fatto con la Fiorentina, e soprattutto quando si affronta un Milan in forma così come in questo momento e con i valori tecnici così elevati. E questa era la vigilia di Mazzarri. Vi dicevo prima di Capello e degli hooligan, della sua denuncia. Stamane c'è stata l'ennesima piccata risposta di Giovanni Petrucci, presidente del CONI. che ha detto ad un programma di Canale 5: noi certamente abbiamo fatto passi da giganti, i disordini sono diminuiti, non è vero che gli ultra condizionano le società, ci può essere qualche episodio. Gli inglesi comunque non possono essere un modello, perché purtroppo per loro ci sono i documenti che li smentiscono, la parola hooligan deriva dagli inglesi. E poi ricorda i 5 anni di squalifica dalle coppe, situazione che noi non abbiamo mai vissuto. Certamente gli inglesi, ha concluso, non sono un esempio di cultura sportiva, e ha ripetuto: non è un caso che la parola hooligan sia inglese. Pensate che il popolo la pensa in maniera completamente diversa. Secondo il sondaggio pubblicato stamane dalla Gazzetta dello Sport, l'88% degli italiani è al fianco di Fabio Capello. L'88%, siamo oltre la Bulgaria, io credo. E a proposito di tempestività, l'intervento di Petrucci arriva stamane dopo che ieri, e sempre a proposito di ultra ovviamente, ieri petardi, cori e slogan contro la Lazio a Formello, contestazione annunciata, 200 ultra biancocelesti che appunto con petardi, insulti e tutto il resto hanno costretto Ballardini prima a sospendere l'allenamento e poi a spostare su un giocatore più lontano. Ma naturalmente gli ultra in Italia non comandano, no, perché sennò li facciamo arrabbiare i nostri grandi dirigenti. Ranieri si è schierato, come avrete saputo, con Capello, ricordando che la sua Juventus, cioè quella di un'estate fa, dovette rinunciare a Stankovic per la violenta reazione del pubblico, non del pubblico, degli ultra juventini. È intervenuta la Juventus per bocca di Ferrara, che mi sembra stia diventando un'aziendalista di ferro, per dire che a lui non risulta che sia così strano, perché invece il fatto era discretamente di dominio pubblico. Ecco, puntuale, Marco Bellinazzo, Le Sole 24 Ore. Marco, buongiorno. Ciao Gigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La domanda d'apertura che ieri avevo preannunciato, ti avrei fatto oggi, è la seguente. Lunedì sera, in assemblea straordinaria dell'Inter, Moratti ha ricapitalizzato, Moratti e gli altri azionisti dell'Inter, ma insomma le azioni sono praticamente quasi tutte di proprietà della famiglia, e quindi ha toccato lui in primissima persona. Una ricapitalizzazione di 70 milioni di euro, che sono comunque una cifra rispettabile. Allora, ti domando innanzitutto se a questo punto il bilancio dell'Inter è salvo, e credo di sì, ma mi risponde. Ma soprattutto ti domando se ho ben capito che questo è proprio il tipo di intervento, per quanto legittimo, per quanto nobile, che non si potrà più fare con la riforma UEFA voluta da Platini. Allora, iniziamo dal bilancio 2008-2009, approvato con un rosso di 154 milioni, un rosso che è meno rosso degli altri anni, in quanto subito dopo la chiusura del bilancio, cioè il 30 giugno del 2009, l'Inter, come ben sanno i tifosi interisti e non solo, ha ceduto Ibrahimovic, per esempio, e ha condotto una campagna acquisti che per la prima volta si è chiusa, almeno negli ultimi anni, con un attivo di 11 milioni più una somma di plusvalenze attive di circa 60 milioni, che però saranno iscritte in bilancio l'anno prossimo, e quanto attengono alla gestione. Certo. 2009-2010. Ecco perché c'è stato bisogno soltanto di 70 milioni per ricapitalizzare quest'anno. Soltanto alle virgolette. Soltanto a molte virgolette, o forse non ne ha di virgolette se pensiamo ai soldi già utilizzati per ricapitalizzare negli anni scorsi. L'Inter credo in 3 anni abbia chiuso con rossi di circa 500 milioni, totale. Per cui evidentemente la famiglia Moratti, e Moratti in particolare, ha spesso dovuto mettere mano al portafoglio per coprire queste perdite. Un'operazione che è tra quelle più invise alla nuova disciplina del fair play finanziario voluta da Platini e dalla UEFA e dagli stessi club europei che hanno accolto questa proposta. Faccio un inciso, Moratti compreso, perché Platini cita sempre questa iniziativa come, ricorda sempre che è stata sollecitata dagli stessi presidenti delle principali società europee, tra cui l'Inter, il Milan e la Juventus comunque. Evidentemente c'è bisogno di moralizzare il calcio, per usare un'espressione cara allo Tito, ma il punto di partenza e regolare la gestione economica e finanziaria delle società, come spesso qui abbiamo raccontato. L'idea base del progetto Platini, che ora dovrà essere reso esecutivo nel giro di un paio d'anni, e non a caso tra l'altro l'Inter quest'estate ha annunciato che vorrà raggiungere in 3 anni il pareggio di bilancio, quindi questo è il primo step di questo processo, no, di sistemazione dei conti. L'idea, dicevo, di base del progetto Platini è quella del prefinanziario, cioè di una situazione economica delle società in cui le uscite, le spese dovranno essere autofinanziate, cioè la società dovrà essere capace di produrre redditi e ricavi tali che siano sufficienti a coprire per esempio gli ingaggi, e qui apro per esempio un'altra parentesi sul bilancio dell'Inter: gli ingaggi sono cresciuti, sono arrivati a quasi 200 milioni nel bilancio 2008-2009 su un fatturato di 230 milioni o poco più, che è spaventosa come proporzione, evidentemente, mi pare, no? Non a caso appunto il piano del prefinanziario, tornando alla UEFA, prevede che il monte ingaggi non superi il 60% del fatturato su ogni 6 euro diciamo, mentre qui siamo vicini al 90, se non sbaglio, grosso modo siamo lì 87-88, quindi il 60% massimo dei ricavi devono essere spesi in ingaggi e non più di questa cifra. In questo modo si dovrebbe arrivare appunto a una gestione economica più sana, potendo poi da quell'altro 40% ricavare degli utili da investire per esempio nella ristrutturazione degli stadi o certo, nei vivai, ovvero insomma in attività di merchandising più internazionali. Questo è il quadro, l'esempio che abbiamo fatto sul bilancio dell'Inter, io credo si potrà poi fare prossimamente su molti altri certo, bilanci, non solo ovviamente dei club italiani, ma si avrà evidentemente un effetto positivo a mio avviso sulla gestione delle società alla luce del progetto di Platini, proprio perché evidentemente le società che non si possono permettere 250 milioni di spesa annua come il Real Madrid hanno bisogno di una sorta di calmiere, certo, per poter poi competere in maniera più equa sul piano sportivo. La seconda domanda, che esattamente come la prima è onnicomprensiva, riguarda gli stadi, riguarda proprio gli stadi. Tu hai accennato, hai detto qualora si arrivasse poi, come ci si deve arrivare, a una gestione più virtuosa, quel 40% eccetera potrà essere destinato in tutto o in parte. Allora, di stadi noi continuiamo a sentir parlare, gli stadi sembra, si arriva in certi momenti in cui, forse in mancanza di altre notizie, gli stadi sembra che da un momento all'altro siano funghi che stanno per spuntare, approfittando delle piogge oppure del sole dopo le buone piogge, e poi invece tutto ritorna discretamente in alto mare, oppure si scopre che ci sono difficoltà oggettive da superare più grandi, oppure che c'è stata un po' di disinvoltura nel presentare progetti. Mi pare che ci sia una discreta somma, no? Cioè, che sia molto variegato il panorama in questo. Io credo che sia necessario distinguere i piani di responsabilità, perché ci si sta avviando verso una campagna, come dire, fallimentare, che è quella appunto legata ai progetti dei nuovi stadi. Con disinvoltura, hai usato un'espressione secondo me molto molto precisa. Da un lato ci sono le società che hanno capito essere la patrimonializzazione attraverso la costruzione e la privatizzazione degli stadi un aspetto fondamentale per poter continuare a gestire proficuamente l'attività economica del club. E che quindi presentano dei progetti, perché questi progetti servono ad attirare investitori, certo, a creare entusiasmo. Pensiamo al caso della Roma, che è l'ultimo eclatante che la stampa ha riportato e su cui poi si sono addensati molti dubbi. Le società fanno il proprio dovere e svolgono una funzione importante nel cercare di stimolare questi progetti. Si scontrano però con la burocrazia, con la mancanza di risorse. E qui secondo me c'è l'altro piano di responsabilità, che è quello della politica, e arriviamo a questa legge sugli stadi che è rimasta impantanata in Senato per oltre un anno. Ha avuto un'accelerazione dopo che la Lega aveva individuato in Beretta l'uomo chiamato a guidarla e quindi a stimolare questo progetto appoggiato da tutte le forze politiche, perché poi la legge è stata approvata al Senato il 7 ottobre con un voto bipartisan. Ora si scopre però che è arrivata alla Camera e arrivati al rush finale, perché secondo le aspettative del sottosegretario Crimi dovrebbe essere approvata entro fine anno, si scopre però che questa legge è piena di buchi e presenta notevoli rischi di speculazione. Addirittura Ermete Realacci, l'esponente del PD, l'ha definita una forma, diciamo, di speculazione più grave dal dopoguerra, insomma, superando addirittura quello che è avvenuto per Italia 90. Che già i suoi problemi li ha creati, esattamente. Evidentemente la legge più o meno è rimasta la stessa, voglio dire, in questo tragitto parlamentare, per cui ci si poteva accorgere prima di questi problemi, non quando c'è l'urgenza di approvare un provvedimento che dovrebbe essere poi la base per presentare quella famosa candidatura agli europei 2016, che dovranno essere, nella speranza di tutti, il volano perché si arrivi a poter costruire nuovi stadi e ottenere finanziamenti europei, come è accaduto ora, lo sta accadendo in Polonia ed Ucraina, che stanno organizzando i prossimi europei. Una riflessione che poi ci potrebbe riportare al punto di partenza, cioè a Capello e a Petrucci. La riflessione la ricavo da una tabella interessantissima che in redazione stamani Franco Piantanida ha preparato. Lui ha preso le due ultime giornate del campionato inglese e ha visto che l'utilizzo dei posti disponibili negli stadi inglesi, che sono poi quelli che non hanno cultura sportiva secondo Petrucci, è arrivato al 93-61%, cioè tu guardi questi stadi, sono pieni per il 93%. Noi in Italia attualmente siamo, nelle due ultime giornate, perché ha fatto la stessa tabella, al 53.11% di riempimento degli stadi. Stiamo parlando di Serie A, perché se parliamo di B, per esempio, e dei recuperi di ieri sera, saremo al 7-8%, grosso modo, dalle immagini che ho visto, dalle immagini televisive che ho visto. Allora, chiudo il cerchio e dico, ma siamo sicuri che di questi stadi nuovi poi ci faremo qualcosa? Perché? Perché è vero che l'obiettivo è portarci le famiglie, eccetera, ma... ed ecco il riaggancio con Petrucci Capello, ma se non li abbiamo bonificati prima degli ultra, oppure se dobbiamo andare retta a Petrucci, Abete and Company, che gli stadi sono già bonificati oggi, forse è meglio che non cominciamo nemmeno. Mi corregga dove sbaglio. Ho poco da dire, devo dire. Si definisce un concetto di stadio, anche in questa legge, leggendola, meraviglioso. C'è lo stadio, ci sono addirittura aree attrezzate per eventi culturali, ci sono ristoranti, ci sono parcheggi, aree di ricreazione, aree di commercio. Il problema è che la gente si deve... La devi portare in queste strutture, certo. Devi creare una situazione ambientale favorevole a che si possa frequentare lo stadio anche al di là delle due ore della partita. E se questo lavoro non viene fatto bonificando il territorio e bonificando gli spalti, è chiaro che si rischia di creare poi delle cattedrali nel deserto. Ha scritto stamane sulla Gazzetta dello Sport Franco Arturi, nella sua rubrica Portofranco, a proposito della vicenda Capello, fanno quello che vogliono, parla di ultra, fanno quello che vogliono nelle curve dove nessuno, tantomeno la polizia, si azzarda a entrare e dove quindi non esiste la possibilità di vendere biglietti con posto assegnato, nelle stazioni, nei treni dove spesso viaggiano assolutamente gratis, negli autogrill che la domenica sembrano la periferia di Baghdad, nelle menti dei giocatori e degli addetti ai lavori intimoriti da insulti e minacce, nel clima generale degli stadi che viene inquinato dalla loro inciviltà. Sono pochi, mica tanto purtroppo. Il fatto è che hanno un'influenza sul nostro calcio enormemente superiore al loro numero, che l'Italia è lontana dai modelli stranieri esattamente per questo motivo e non per altri. Ripeto che di fronte a numeri, considerazioni, ma insomma a tutto quello che sappiamo, no? di questo fenomeno, il presidente del CONI esca con delle prese di posizioni del genere, mi sembra, parlando oltretutto di cultura sportiva inglese, che secondo me questo è veramente l'aspetto più grave. Infatti ci sono alcuni ascoltatori che lo stanno facendo notare, uno dice addirittura, e qui naturalmente mi dissocio ma lo cito, che forse solo un pernacchio alla Totò potrebbe accogliere un'affermazione di questo genere. Agli inglesi manca la cultura sportiva, detto da noi. Vabbè. C'è una domanda per te, Marco Belinazzo, ma non andrà a finire come al solito, domanda Marcello da Milano, cioè che noi italiani abili in contabilità creativa riusciremo a trovare qualche magheggio per aggirare le nuove norme di Platini? Beh, mi auguro di no, anche perché si tratta di norme da applicare nell'interesse stesso di quei proprietari che magari sono stanchi di spendere cifre folli, di doverle spendere per reggere la concorrenza degli altri paesi. Quindi c'è un interesse di tutti in qualche modo, in questo caso appunto, a rispettare queste regole. Franco, chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, no, io volevo dare la mia testimonianza e avallare il discorso che facevate prima riguardo agli ultras. Io vivo vicino allo stadio, da ragazzino andavo allo stadio, andavo in curva e quindi parlo con ragion di causa. Cioè il problema è che questa gente va, le curve che frequentano questa gente vanno chiuse, è l'unico metodo per risolvere determinati problemi. Beh. Se la sente Petrucci o Abete, lei è un disfattista, caro. Sono un disfattista, ma siccome io la conosco dall'interno, quella gente, perché l'ho frequentata, io oggi come oggi ho due figli e sono anni che mi chiedono di portarli allo stadio, io non me la sento, perché sinceramente andare in mezzo a quel bailame è diseducativo e non è piacevole. Quando chiuderanno le curve negli stadi, allora forse la gente ricomincerà, la gente normale, la gente che vuole passare un pomeriggio di sport. Certo, certo, Franco, sì, difatti è quello, è il traguardo. Il traguardo, appunto, adesso c'era, va di moda, ne parlavamo prima, Marco, la scorciatoia dello stadio nuovo che... sembra, no, io me lo vedo come un disegno di Peinè, questo stadio nuovo, no? In cui tutti si tengono per mano, arrivano in mezzo ai fiori, no? Peccato che passi attraverso la bonifica di queste situazioni che sono quelle con cui ci misuriamo da 20 anni. Sì, anche perché spesso si trascura il fatto che non ci sono soltanto fenomeni di violenza nel mondo ultra o di scontri con la polizia, ci sono veri e propri fenomeni delinquenziali, procure che indagano, certo. Attività di spaccio e vendita di droga. No? Ma come no? C'è di tutto e non a caso molti dirigenti vivono sotto scorta a partire da Galliani. Che però mi pare che tra le reazioni a quello che ha detto Capello sia stato tra i primi a dire no, non capisco di che cosa l'amico Fabio sta parlando. Beh, evidentemente ha scelto un low profile per tenendo conto insomma della delicatezza della situazione. Certo. Ci sono società e club che hanno tentato di rompere questo cordone ombelicale, questa zona grigia di complicità che hanno sempre avuto con le frange più estreme della tifoseria e che ne hanno pagato e ne stanno pagando le conseguenze. Ancona, da Ancona Alessandro, buongiorno. Buongiorno a voi. Dica. Sì, io volevo intervenire in merito al discorso che facevate prima rispetto alla presenza, anche alla scarsa affluenza dei tifosi negli stadi, sì. Che si collega un po' anche al discorso della violenza e della prevenzione. Ecco Alessandro, mi perdoni se intervengo un istante solo, sbaglio o può darsi che sovrapponga delle immagini, perché ieri sera era parecchio tardi quando le ho viste, ma sbaglio o per un Ancona in testa al campionato di B ieri sera c'era un deserto assoluto allo stadio? No, non sbaglia, non era un deserto assoluto, c'erano 7.000 persone, lo stadio di Ancona. Ma quanti ne tiene il dorico? Ma ne tiene circa 22.000 quando è completamente pieno, la nazionale abbiamo fatto 20-21.000 persone. Beh, allora c'era una grande concentrazione in un settore solo. Assolutamente sì. Le garantisco che... La tanto vituperata curva, che io ero uno di quelli che ieri sera ero in curva, io sono un abbonato, frequento lo stadio tutte le domeniche una volta, oggi tutti i sabati, qualche lunedì, a volte il martedì, quindi ho qualche conflitto di identità anch'io rispetto a seguire la mia squadra del cuore, quindi ecco, una volta diciamo frequento lo stadio la domenica, oggi sinceramente non lo so più. Non sa più quando, ma certo. Già questo è un problema, soprattutto per noi tifosi della B che vediamo le partite della nostra squadra spostate ad orari sempre diversi, in giorni sempre diversi, quindi questo legato anche a un mondo del lavoro oggi che è sempre più impegnativo, rende difficile anche partecipare a un momento di festa e di sport come quello della partita, che una volta era la domenica pomeriggio, quindi già questo è un primo limite. L'altro limite è che si è fatto molto, non abbastanza, si è fatto molto rispetto alla prevenzione per la violenza negli stadi. Questo però ha causato una serie di contraccolpi. Ad esempio, parlo della situazione di Ancona, vi racconto la mia serata di ieri. Sono partito, io abito a circa 8 km dallo stadio e ho impiegato 45-50 minuti per arrivare al parcheggio. Perché? Perché lo stadio di Ancona ha soltanto due strade di accesso appunto a questo impianto. Una di queste strade viene chiusa perché in base alle norme sulla sicurezza una strada viene dedicata ai tifosi ospiti. Faccio notare che ieri sera, li ho contati io personalmente, i tifosi ospiti del Piacenza erano 8 nella curva. 8 erano otto. E la città era, non dico a ferro e fuoco, ma insomma era sconvolta o comunque con viabilità modificata, come dicono, come scrivono ogni tanto, per 8... non è male, non è male. Alessandro, la interrompo perché stava diventando, la testimonianza era bella, ricca, documentata, interessante. Poi ci sono altri ascoltatori che premono, però insomma ci risentiremo in una prossima occasione. Magari alla prossima gara interna ci aggiorno su quanti erano gli otrai e quante vie in più o circonvallazioni hanno chiuso. Per... E devo dire, se mi permetti Gigi, meno male che c'erano quegli 8 tifosi, perché ormai è prassi del caso, in attesa dell'avvento di questa famosa tessera del tifoso di vietare trasferte, certo. Limitare la vendita dei biglietti per ragioni di sicurezza o semplicemente per evitare troppi problemi. Certo. E questo ovviamente incide anche sulla presenza agli stadi o sulla voglia di affrontare lunghissime procedure burocratiche ormai per acquistare un biglietto. Fermo restando che l'ascoltatore ha parlato di 7.000, adesso proverò a controllare perché mi sembrano tanti rispetto a... Io ho visto le immagini davvero, anche perché l'Ancona ieri sera, vincendo quest'altra partita, va in testa. Mi immaginavo, vedendo le immagini, che chissà quale festa, chissà quale... Anche lo scorso anno la B viaggiava su medie di capienza degli stadi sul 3-4-5%, salvo alcune eccezioni. Le inquadrature nel deserto dei Tartari. Maurizio, Genova, buongiorno. Sì, buongiorno. La mia testimonianza è sulla partita della Sampdoria col Bologna di sabato pomeriggio. Io sono un bambino di 9 anni. Insomma, appassionato, ho iniziato ad andare qualche volta allo stadio. Siamo andati alla partita con l'Inter e questa qua. E siamo arrivati molto presto, sarà stato le 4:30, 20 alle 5, quindi un'ora e mezza prima dell'inizio della partita. C'era una cinquantina di tifosi del Bologna che hanno iniziato a inveire, a gridare. Mio figlio diceva: ma cosa c'hanno? Sinceramente non sapevo cosa dire, per che motivo avessero da gridare così. E poi ovviamente quando man mano si è riempito lo stadio anche i tifosi della Sampdoria hanno iniziato a gridarsi l'un l'altro, non si capiva neanche bene cosa. Poi, per come ha preso anche il corso della partita, alla fine del primo tempo se ne sono anche andati tutti i tifosi del Bologna, certo. E quindi questi qui sono arrivati da Bologna, ho fatto la trasferta, sono arrivati un'ora e mezza prima, erano lì, quindi saranno partiti, non lo so, mattinata. Vabbè, insomma, adesso questo poi saranno problemi loro, no? Maurizio, grazie anche della testimonianza sua. Ancora uno e poi magari voltiamo pagina. Antonello, provincia di Monza, Brianza, leggo, però dica. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Ma forse pensavo un tifoso del Piacenza che deve andare ad Ancona il martedì sera, tornare a casa a mezzanotte, la una. È inutile che ci si lamenta che gli stadi sono vuoti quando si giocano in orari impossibili. Per esempio, a me piacerebbe tanto portare il mio bambino a vedere il Milan. Quest'anno sono riuscito a portarlo una volta sola, Milan-Bologna, perché è l'unica partita che il Milan ha giocato in casa la domenica pomeriggio. Sì. Ora, come si fa a portare un bambino la domenica sera a vedere il Milan, l'Inter, la Juve, quello che è, pensando che poi prima delle 12:30 alla 1 non è a letto? È impensabile, quindi c'è molta ipocrisia. Per esempio, domenica ha giocato la partita più importante della Premier League, le due squadre più importanti, Liverpool, Manchester United. Bene, hanno giocato la domenica pomeriggio alle 3. Da noi in Italia, Milan-Juve, Inter-Milan, Juve-Inter, non si gioca più la domenica pomeriggio, quindi c'è molta ipocrisia. La gente allo stadio a una certa ora non può andare, è perché poi il mattino dopo va a lavorare, ma soprattutto poi non va d'inverno, perché è come stare dentro in un frigorifero. Certo, certo, Antonello. È un cane che si morde la coda. Se le società hanno come italiane come primissima fonte di introiti di diritti televisivi, devono piegarsi nel calendario, cioè, alle esigenze della TV. E non a caso, e chiudo con un riferimento alla legge sugli stadi, uno dei criteri fondamentali nel progetto di nuovo stadio appunto è la massima adattabilità alle riprese televisive. Quindi evidentemente più che la comodità degli spettatori, questa è la tua idea, negli stadi e quelle degli spettatori che sono sul divano, cioè, di casa. E questo mi sembra pure il futuro. Conteremo gli spettatori stasera, vediamo se con l'aiuto di Franco Piandanita domani riusciamo a dare il numero degli abbonati. Gli abbonati non si può, cioè gli abbonati, il numero lo diamo anche adesso, volete, insomma il numero degli spettatori stadio per stadio dei 9 stadi in cui si gioca stasera. Grazie a Marco Bellinazzo, Sole 24 Ore. Le do un dato in controtendenza, scrive un veronese: alle partite al Bentegodi, per le partite dell'Hellas Verona ci sono sempre almeno 15.000 persone. Almeno no, ma è vero che c'è una quantità di pubblico impressionante. La tifoseria del Verona è da sempre una delle più popolose e fedeli. È vero, è verissimo. Adesso poi che sia pure in Lega Pro, diciamo la XC1, che non è certamente una collocazione in linea col passato del Verona, adesso che è tornato comunque in testa alla classifica, il Verona è più seguito che mai, insomma, certamente molto più del Chievo, che pure gioca da ormai da 9 anni, salvo una parentesi, gioca stabilmente in Serie A. In attesa di altri vostri interventi, andrei avanti con la vigilia serale, per esempio con... No, prima il ripasso di storia. Se no cambiamo, stravolgiamo una scaletta e cambiamo collocazione a un appuntamento che invece mi sembra abbastanza azzeccata. Sembra ieri. 28 ottobre 1990. A Rio de Janeiro, la nazionale italiana maschile di volley, guidata da Julio Velasco, conquista il primo titolo mondiale della sua storia, battendo in finale per 3-7-1 i fortissimi cubani. Zorzi, Lucchetta, Bernardi, Cantagalli, Gardini e Toffoli dimostrano che il trionfo europeo, ottenuto l'anno prima in Svezia, non è stato casuale. Inizia così l'epopea della generazione dei fenomeni, capaci di vincere 3 campionati mondiali consecutivi, 4 europei e 8 World League. Era ovviamente di Nicola Filippone la rubrica. Due righe di conti fatte da Franco Piantanida. Ieri sera non erano 7.000 gli anconetani presenti allo stadio, erano 1.233 i paganti, gli abbonati sono 4.286 e non è detto che tutti ci fossero, il totale fa 5.519, compresi gli 8, immagino, piacentini che avranno regolarmente pagato il biglietto, quindi era un pochino meno. Ecco perché 5.500 al massimo e magari qualcuno in meno in uno stadio che ne tiene 25.000 facevano tutto sommato quell'effetto, tutti concentrati insieme, quell'effetto raggelante di uno stadio. E in base alla maggioranza di inquadrature non stavi a porte chiuse addirittura. Da Milano ha chiamato Paolo, buongiorno. Buongiorno signor Granzini. Dica. Mi chiamavo riallacciandomi al discorso della sicurezza o di quello che si fa per la sicurezza degli stadi. Sabato sono andato, dopo 10 anni, forse 15, a rivedere l'Inter a San Siro, e a parte i tornei mi hanno fermato chiedendomi se avevo un accendino, che io gli ho prontamente dato, e la domanda è: mi scusi, ma il nostro presidente fuma? Chi è che... Ma, si immagina se il presidente tira un accendino contro i giocatori, capito? Ma a quel punto lo devo tirare io. Cioè, non c'è nessun problema, però il discorso della sicurezza non può essere lasciato a delle persone che sono delle persone, dei pensionati, giustamente, che si armano di buona volontà, però se lo chiedono a me ridò l'accendino, ma se vanno in curva a chiedere a 4 ragazzi di ridargli un accendino, finisce male, ecco. Quindi la sicurezza è un attimino, secondo il mio parere, un attimino si fa qualche cosa, ma tanto per dare un senso, ma non esiste, o perlomeno esiste nel settore arancio primo anello, dove non c'è nessun problema a chiedere a una persona che ha un minimo di educazione di dargli un accendino, e non si fa nulla contro quelli che sono invece i veri, come si può dire, dei vandali, perché poi non sono neanche dei tifosi. Non sì, certo. Grazie Paolo. Andiamo a Torino da Giovanni, buongiorno. Buongiorno, senta, io proprio volevo intervenire con un racconto aneddoto analogo a quello che ha raccontato lo spettatore di prima. Cioè, io non riesco solo a capire, e la domanda è questa, a chi è affidato questo compito comunque di sorvegliare, di controllare? Perché ci si sente completamente preso in giro. Cioè, io ormai il calcio lo seguo solo più in TV. Quelle due volte che sono andato allo stadio, una volta ho dovuto scroccare l'accendino e un'altra volta un mio amico si è preso una monetina in testa, quando a fianco a noi in curva tranquillamente fumavano anche sostanze stupefacenti, tamburi e quant'altro. E quindi le persone probabilmente, oltre che a non sentirsi tutelate, si sentono anche un po' prese in giro. Tutto qua. Lo credo bene, Giovanni. Lo credo bene. Scrive Monica Cerruti, per tornare a un argomento di prima, dice: pur con modi profondamente diversi, bisogna però ricordare che l'acquisto di Stankovic da parte della Juventus era avversato da tutti noi tifosi della Juventus, piccoli, medi, grandi e ultra. Beh, complimenti, dico, non mi sembrava una brutta operazione, ecco, se ho presente altri acquisti che la Juventus ha fatto in quello stesso anno, cioè lo scorso anno, e anche in questa stagione a metà campo, invece il rendimento di Stankovic. Poi per carità, ciascuno faccia le sue scelte e ciascuno ha i suoi gusti. Qualcun altro invece ricorda e dice: ma non è vero quello che lei dice, perché se fu così per Stankovic, gli ultra certamente non erano favorevoli al ritorno di Cannavaro, e invece Cannavaro è tornato lo stesso. Sì, ma Cannavaro era sponsorizzato dal commissario tecnico, che come è noto potrebbe riavere un futuro juventino, e quindi probabilmente lì la società potrebbe aver avuto un motivo in più per andare avanti in una intenzione di acquisto che invece per Stankovic si era fermata prima. Mauro, chiamato da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, io volevo solo fare una piccola testimonianza. Si parlava tanto prima di stadi, di proprietà, con annessi, centri commerciali, ristoranti e quant'altro. Reggio Emilia, 40 certo. Stadio, centro commerciale, 40 negozi, multisala. Due domeniche fa, per Reggiana Verone, parliamo di Serie C, oppure prima divisione, come si vuol dire, i negozi erano aperti domenica, deserti fino alle ore 18-19, quando la partita è terminata, se ne sono andati tutti, e tutti si sono lamentati perché un centro commerciale, negozi e quant'altro costano, se non ci va nessuno perché si ha paura della partita, della polizia, degli ultras, questo non potrà mai funzionare se non c'è una regolata che una persona può andare a un centro commerciale, può andare dove vuole, senza subire delle violenze. Certo. Volevo solo appuntare questo. Grazie Mauro, grazie anche della sua testimonianza. Domani torniamo a parlare di pallone, perché evidentemente stasera si gioca, e quindi speriamo di avere qualcosa di più divertente rispetto a oggi da raccontare. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Laura Vanossi e Franco Piantanida in redazione. Appuntamento a domani.